L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta che questa settimana registriamo al Vinitaly. È un grande piacere per noi essere qui e vi presento subito i nostri ospiti che sono Marcello Lunelli, vicepresidente delle Cantine Ferrari, e Lucrezia Lamastra dell'Università Cattolica. Benvenuti. Buongiorno. Ovviamente tema di questa puntata non possono che essere le vigne sostenibili, possiamo dire così, il vino sostenibile. Come può un vino essere sostenibile? Che cosa si fa nelle aziende perché questo avvenga? E lo chiediamo ai nostri interlocutori, ciascuno con la sua esperienza ovviamente. Marcello Lunelli delle Cantine Ferrari ovviamente ci parlerà della sua esperienza, di come tutti coloro che sono coinvolti nella produzione del Ferrari lavorano in questa direzione, e Lucrezia Lamastra ci parla invece di un programma di sostenibilità aziendale ideato dal Centro di Ricerca Opera della Università Cattolica, per l'appunto sviluppato con l'Università di Milano e che in questo momento è testato principalmente in Sicilia, vero? Sì, è un progetto nato 2 anni fa, nel 2010, un'idea del professor Capri, che oggi non è qui, e dell'azienda Tasca del Merita, quindi è iniziato con loro piano piano nel 2010. Nel 2011 abbiamo deciso di aprire ad un'altra azienda perché ci sentivamo pronti di rodare il sistema che era stato messo a punto con un'altra azienda siciliana che è Planeta, e adesso abbiamo pensato di rendere Sustain un marchio di sostenibilità per la Sicilia, quindi di aprirlo ad altre aziende siciliane per dimostrare al mondo che si possono fare vini di qualità nel rispetto dell'ambiente e del territorio. E anche con rispetto etico, diciamo, etico, perché questo esatto. È anche una parte del vostro progetto. È anche della nostra mission, anche come Università Cattolica del Sacro Cuore, chiaramente. Sì, l'etica, il legame con il territorio, quindi con le comunità sociali che vi abitano e lo vivono. Lucrezia, come lavorate? Da che cosa si comincia quando si vuole varare un progetto di questo tipo in un'azienda? Noi abbiamo messo a punto un programma, un ciclo che secondo noi le aziende devono seguire per poter essere sustain, e il punto di partenza deve essere sicuramente la consapevolezza, perché abbiamo visto proprio in questi anni, lavorando con le aziende, lavorando con chi ci lavora, quanto sia importante che loro capiscano quali sono i principi della sostenibilità per poter iniziare a ragionare in termini di miglioramento della sostenibilità. Quindi noi abbiamo iniziato con delle linee guida raccolte per tutte le risorse che noi abbiamo affrontato in Sustain, e non sono solo risorse prettamente naturali ma appunto anche sociali ed economiche, e sulla base poi di queste linee guida abbiamo sviluppato delle schede di autovalutazione. Queste schede di autovalutazione portano sia l'azienda ad avere maggiore consapevolezza e sia a poter misurare in termini soprattutto qualitativi quali sono i suoi punteggi per le risorse in termini di sostenibilità. Però non finisce qui, perché questo è un approccio un po' grossolano. Dopo si passa ad un'interpretazione di questi risultati attraverso l'uso di indicatori, come ad esempio il carbon, il water footprint, o indicatori di sostenibilità della gestione del vigneto, e si approfondiscono questi temi, perché gli indicatori li utilizziamo come mezzi che ci dicono dove si può migliorare, come lo si può fare e anche prevedere quali saranno i frutti del miglioramento. Dopodiché l'azienda sceglie, in base a queste proposte che noi possiamo offrirgli per migliorare, cosa mettere in atto, lo mette in atto, e l'anno dopo si parte con un nuovo ciclo e così via. E quindi, per quanto riguarda Tasca del Merita, siamo già al secondo ciclo. Sì. L'altra azienda invece, Planeta, ha iniziato un anno fa. Sì. E nello sviluppo, diciamo, del progetto, per esempio Tasca del Merita, che ha più esperienza, che cosa ha notato che succedeva e che cosa ha deciso di cambiare? Quindi? Ma una grande miglioria, come abbiamo ad esempio riportato nel report di sostenibilità di quest'anno, è stata data dal nuovo impianto fotovoltaico nell'azienda di Regaliali. Questo ha permesso chiaramente di ridurre la dipendenza dell'azienda dall'esterno come fornitura di energia, e quindi di ridurre anche le tonnellate di CO2 equivalenti emesse. Come esempio, ad esempio per il futuro, loro prendono l'impegno di ridurre il peso delle bottiglie. Il peso delle bottiglie, che è sempre stato associato ad una maggiore qualità del vino, adesso cerchiamo di far cambiare questa opinione diffusa. È meglio avere bottiglie leggere quando è possibile tecnologicamente, a seconda chiaramente dei tipi di vini che si vogliono imbottigliare, perché questo abbatte notevolmente le emissioni di CO2 correlate non solo alla produzione del vetro ma anche e soprattutto al trasporto, perché in Sicilia attualmente non ci sono produttori di bottiglie, quindi il vetro viaggia molto più leggero, meglio è per le emissioni di CO2 correlate a tutto il trasporto. Andiamo alle cantine Ferrari. Marcello Lunelli, voi invece, anzi invece no, perché ho sentito tanti tratti simili a quelli che voi avete già inserito nella vostra azienda. Ho sentito parlare di produzione di energia da pannelli fotovoltaici, attenzione a acqua e così via. Voi cosa avete fatto finora? Ma per quanto riguarda la cantina, visto che siamo noi i primi protagonisti, i pannelli fotovoltaici, la riduzione nel consumo dell'acqua, la riduzione di macchinari per la lavorazione del vino, quindi il vino deve essere lavorato il più naturale possibile in cantina, e il fatto di ridurre il peso delle bottiglie, decisioni che a livello direzionale hanno un'immediata corrispondenza con la realtà. Cosa ben diversa è quando si ha a che fare con oltre 500 viticoltori. Le nostre dimensioni aziendali ci fanno colloquiare con 500 produttori di uva, e tutti questi produttori li abbiamo voluti portare verso un nuovo modo di pensare o ripensare quando entrano nel vigneto. Quindi questo è l'aspetto più difficile. È l'aspetto più difficile perché gli interlocutori sono tanti. Quando si decide di ridurre il peso medio di una bottiglia, ci si incontra, esatto, e si fa. E tecnicamente, se è possibile. Quando invece si ha a che fare con il lavoro, con una cultura, con una storia di un territorio, le cose si mettono in maniera diversa. Quindi 5-6 anni fa abbiamo iniziato a provare con le nostre aziende agricole, è sempre stato così, nuove metodologie di approccio alla viticoltura trentina. Quindi abbiamo dedicato un'azienda ad una viticoltura biodinamica spinta, estrema, per capire cosa volesse dire questo nuovo modo di sentiment di viticoltura. E poi da 3 anni a questa parte ci siamo abbiamo prodotto un protocollo che abbiamo chiamato di viticoltura salubre e sostenibile di montagna. Di montagna perché il 70% della superficie del nostro Trentino è di montagna, e quindi è una caratteristica importante non solo del territorio ma anche delle persone. Le persone di montagna hanno un carattere loro particolare, e quindi l'aspetto non credo, no? Che i siciliani siano più malleabili. No, esatto, sì, però perché sono di Aosta di origine. quindi c'è stata anche questa attenzione, dicevo, salubre e sostenibile. E la sostenibilità ce la siamo un po' costruita attorno a 3 dimensioni. Una dimensione economica, cioè dovevamo garantire a questo protocollo, a questo approccio, comunque un riconoscimento economico sia ai prodotti nostri che vendiamo in Ferrari e di conseguenza anche alla filiera, quindi al produttore di uva, al quale chiediamo molti più lavori nel vigneto, e quindi è chiaro che ad una richiesta di maggior lavoro deve perché anche richiedete esserci. Più lavoro? Richiediamo più lavoro perché, per esempio, in questa dimensione ambientale del protocollo sono stati totalmente vietati i diserbanti, quindi tutte le sostanze chimiche da distribuire sul terreno per controllare le malerbe. Quindi c'è più lavoro, perché prima si passava con una lancia per distribuire un prodotto chimico altamente tossico, adesso invece bisogna lavorare, bisogna passare nel vigneto lavorando, muovendo la terra, e quindi si impiegano più ore, si trascorre più tempo nel vigneto. Questo però ha un effetto potentissimo sulla fertilità del terreno e anche questa dimensione sociale sulla salubrità della vita del viticoltore. Meno prodotti chimici noi tentiamo di far usare e comunque permettiamo al nostro viticoltore, è chiaro che migliora la vita del viticoltore stesso. Quindi c'è un approccio a tutto tondo. C'è l'ambiente, perché è giusto, una sostenibilità che ha una dimensione ambientale, preserviamo l'ambiente. C'è una dimensione produttiva, se il terreno riacquista le sue potenzialità massime, ci sarà una maggior caratterizzazione dei nostri prodotti. C'è una dimensione economica, cerchiamo di dare un riconoscimento economico all'uva che ci arriva in cantina. Miglioramento della salute, non solo parlavo dei diserbanti, ma anche tutta la campagna fitosanitaria, cioè di lotta alle malattie fungine nel vigneto, noi adesso la proponiamo solo con rame e zolfo, quindi con elementi naturali del mondo che diciamo che il Signore ci ha dato senza prodotti chimici di sintesi. E quindi anche questo è un modo non solo di preservare o rispettare l'ambiente, ma anche di migliorare e di guardare anche alle generazioni future. Quindi una migliore anche vita, una migliore etica all'interno del vigneto. Per fare questo l'iter è lunghissimo, perché vi ripeto, 500 persone sono 500 storie familiari, sono 500 caratteri, quindi ogni anno organizziamo dei corsi di 7-8 giornate di full immersion proprio per dare spiegazione di quello che facciamo, e sono delle azioni che si possono fare, cioè noi portiamo degli esempi reali che abbiamo già attuato nei nostri vigneti. Noi vogliamo arrivare in vendemmia con dell'ottima uva, un'uva che ci fa lavorare, ci fa vivere, ma abbiamo l'esperienza e la prova provata che quello che proponiamo ai nostri conferenti si può fare. Questo ci dà una grande credibilità e quindi anche una maggiore attuabilità di tutto questo, certo, di questo programma. Lucrezia Lamastra, vi trovate, diciamo, avete un terreno comune, sia pure su luoghi diversi, ambienti diversi, però... Direi di sì, questo approccio proprio di sostenibilità di cui ha parlato il mio collega, direi che sì, è quello che è anche per noi. E anche per voi è questo, sì, l'obiettivo, diciamo. Sì. E anche i metodi, via via il coinvolgimento, le famiglie. Di lasciare a chi verrà dopo di noi l'ambiente di cui abbiamo potuto godere noi, che è proprio la chiave della sostenibilità. Quindi l'approccio è il medesimo, e anche il coinvolgimento delle famiglie. Noi chiaramente lavoriamo con aziende che gestiscono direttamente il territorio, e quindi è anche più facile rispetto... Dover coordinare le attività di molti di che altri lavorano sullo stesso territorio. E noi, per quei pochi conferitori che abbiamo, sì, attuiamo un approccio di questo genere, di dare anche loro le nostre linee guida che operino seguendo i nostri dettami. Perché avete cominciato con la Sicilia? C'è un motivo preciso o è stato un caso? È una storia di amicizia, di condivisione di valori tra il professor Capri e la famiglia Tasca del Merita, che hanno lanciato questa idea e che poi è stata accolta. Che però è stata sviluppata all'Università Cattolica, in particolare a Piacenza. Sì, ma perché il Giuseppe Tasca ha studiato presso l'Università Cattolica di Piacenza, quindi c'era un legame doppio. Erano compagni di università, sì, e quindi c'era un doppio legame. È rimasto il legame con il professore, poi è partito così e poi... E quindi è andata avanti. Sì. L'altro pianeta. Torniamo in studio e torniamo a collegarci, diciamo così, anche se registriamo in questo momento dal Vinitaly, e stiamo parlando di vigne sostenibili. In studio con noi ci sono Marcello Lunelli, vicepresidente delle Cantine Ferrari, Lucrezia Lamastra dell'Università Cattolica. Stiamo parlando di la produzione del vino può diventare più sostenibile, come le Cantine Ferrari hanno già avviato questo processo, come l'Università Cattolica attraverso un progetto, un programma di nome Sustain sta risolvendo lo stesso problema, sta affrontando lo stesso problema in Sicilia con due cantine, Tasca del Merita e Planeta. E adesso vorrei chiedere ai nostri interlocutori di un'affermazione che mi fece anni fa il professor Capri quando mi parlò per la prima volta del progetto Sustain, di come appunto gli agricoltori siano in questo momento gli unici veri controllori e sorveglianti del territorio, delle risorse idriche che abbiamo, della qualità dei suoli. Ciascuno di voi cosa ha notato nei territori in cui lavora? Com'è cambiato il nostro territorio e le sue capacità di produzione? Marcello Lunelli. Beh, da parte nostra sicuramente, essendo il Trentino un territorio di montagna, l'agricoltura, sia essa viticola, da noi ci sono anche una grande produzione di mele, il territorio trae assolutamente un grande vantaggio dalla gestione razionale e ragionata sia del vigneto che del frutteto. Se mancano questi due elementi, è chiaro che un territorio di montagna si impoverisce delle sue strutture paesaggistiche e soprattutto va incontro anche a un deterioramento che potrebbe essere dato sia dall'avanzamento dei boschi, che è sempre negativo in questo momento storico, ma anche ad una erosione e quindi anche pericoli per chi vive in questi territori. Quindi, è quello che purtroppo vediamo spesso accadere. Assolutamente, quindi grande importanza non solo al viticoltore perché produce l'uva, ma anche perché preserva il territorio e preserva il paesaggio. Mi viene in mente un esempio nella nostra provincia, la Valle di Cembra, la Valtellina, se pensiamo alla zona delle Cinque Terre o alla Val d'Aosta, lì il viticoltore non ha solo una funzione di produttore, seppur illuminato, di uva, ma anche è un produttore di paesaggio, un produttore di turismo in senso lato, perché preserva un territorio che ha una storia millenaria che fonda le sue radici sul suo lavoro, cioè sul lavoro del viticoltore. Dall'altra parte l'altro adattamento che noi in Trentino stiamo cercando di portare è i cambiamenti climatici stanno portando nella nostra provincia un aumento della temperatura. Questo aumento della temperatura ci pone l'opportunità di alzare l'altitudine dei nostri vigneti affinché il viticoltore non debba stravolgere il suo lavoro, ma la vigna si adatta ad una migliore temperatura che si alza con l'altitudine del vigneto. Quindi gli stessi vigneti che mio nonno utilizzava per produrre lo spumante Ferrari 50 anni fa, ora dobbiamo averli a delle altitudini molto più alte, diverse. E questo lo possiamo fare perché siamo in montagna, questo lo possiamo fare perché con quell'approccio sostenibile l'idea del vigneto è un vigneto in equilibrio. Quindi se riduciamo l'uso della chimica, se cambiamo l'approccio viticolo tradizionale, un vigneto in equilibrio, e quindi deve essere visto veramente come un organismo, la pianta, il terreno, il collegamento dei due con l'apparato radicale e con l'ambiente che lo contiene, il maggiore equilibrio del vigneto ci porta anche a coltivare dell'uva che prima era forse impensabile, cioè in luoghi impensabili. La vostra attività è mirata alla sostenibilità anche, quindi c'è questa attenzione fin dall'inizio, non tutti ce l'hanno questa attenzione. Mi vengono in mente anche territori italiani un po' troppo sfruttati, le Langhe, quando uno va... Sì, lì diciamo che... Ma non è l'unico, è Chianti, sì, tanti posti, l'equilibrio... È un equilibrio. Io penso che non è un po' messa a rischio quando... No, in Langa, come in Toscana, c'è un'attenzione, un amore per la terra dei viticoltori che assolutamente non vedo questo pericolo. Il pericolo è l'abbandono di queste zone. Difficile perché la valorizzazione, quindi la dimensione economica dell'attività in Langa, dà un reddito tale per cui il viticoltore rimane, coltiva, preserva, fa la manutenzione dei vigneti. Tutto è in un equilibrio umano. È ovvio che la natura non ha creato le Langhe, è stato l'uomo con le sue opere, però è molto strutturato e pensato. A me vengono in mente, e qui lancio la provocazione a Lucrezia, in molte altre zone dove la dimensione economica, la redditività dell'attività agricola non permette al viticoltore di continuare il proprio lavoro, c'è l'abbandono. Quindi mi vengono in mente alcune zone della Sicilia nel quale si stanno abbandonando dei territori, dei vigneti, e questi territori saranno alla mercé di una gestione, non gestione, dell'equilibrio del territorio stesso, e quindi saranno soggetti a erosioni, a tutte quelle attività che e erodono un patrimonio del paesaggio. Lucrezia, sei stata chiamata in causa. Sono perfettamente d'accordo, sì. Lo vediamo ovunque, dove il territorio da agricolo passa ad incoltivato oppure abbandonato, ci sono problemi sia ambientali che anche abbastanza gravi, appunto rischio di erosione, perdita del suolo, oppure urbanizzazione di terreni che prima invece erano dedicati all'agricoltura. E quello che noi facciamo con Sustain, diciamo, ci siamo inseriti in queste due aziende, che sono già due aziende vocate all'agricoltura da molti anni e quindi hanno già un paesaggio agricolo riconosciuto, e noi intendiamo ridare valore a tutto questo, far capire quanto l'agricoltore sia un custode di un paesaggio che poi noi riconosciamo come un paesaggio bello e di valore, che può essere fonte di turismo e non solo. Quindi noi diciamo sempre, noi vogliamo riportare al centro la multifunzionalità dell'agricoltura. L'agricoltore non produce solamente beni agricoli, che può essere il vino, qualsiasi altro prodotto agricolo, il vino nel nostro caso, ma produce dei servizi che sono servizi per tutti. In breve ti chiedo, nominando i cambiamenti climatici, prima appunto Marcello ci diceva di quello che accade nel Trentino, in Sicilia invece che conseguenze stanno avendo? No, direi che le conseguenze dei cambiamenti climatici nel sud Italia non sono così drammatiche come possono essere in altre situazioni geografiche, quindi al momento tutto sotto controllo. Sì. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Ricordo Marcello Lunelli, vicepresidente delle Cantine Ferrari, Lucrezia Lamastra, Università Cattolica. È il momento di Maurizio Melis con Mr. Kilowatt. A proposito di produzione sostenibile di vino, dovete sapere che in un'azienda vitivinicola di alta qualità circa il 10% dei costi è legato al consumo di energia. Ormai in ambito agricolo infatti sono divenuti consueti sia l'installazione di impianti fotovoltaici che l'uso degli scarti agricoli, come per esempio residui di potatura, per produrre energia sia termica che elettrica. D'altra parte, le imprese vitivinicole italiane hanno ormai imparato molto bene che sostenibilità vuol dire vendite, soprattutto in mercati come quello americano, dove la sostenibilità è proprio percepita come un elemento di lusso e come tale tira sul mercato. Ecco allora che le aziende più avanzate stanno intervenendo pesantemente sul ciclo produttivo per renderlo meno energivoro. Intanto stanno tornando alla ribalta le cantine ipogee, cioè le cantine, le vecchie cantine sotterranee, che mantengono naturalmente al fresco i vini riducendo il fabbisogno di raffreddamento. Le aziende poi più avanzate ci stanno aggiungendo un'ulteriore spruzzata, diciamo così, di tecnologia, per esempio puntando su cantine ipogee coibentate, dotate di sistemi di illuminazione naturale e raffreddate eventualmente anche mediante acqua proveniente dalle falde acquifere sottostanti. Spostandosi poi dalla cantina al vigneto troviamo per esempio trattori capaci di distribuire in modo differenziato punto per punto concimi ed agrofarmaci, secondo il cosiddetto paradigma dell'agricoltura di precisione, per cui bisogna somministrare acqua e sostanze al terreno in funzione delle sue caratteristiche locali, che pensate un po' variano addirittura a pochi metri di distanza. C'è persino chi pensa di sostituire le buone vecchie bottiglie di vetro con bottiglie in alluminio, che pesa molto meno e si raffredda più facilmente. Naturalmente non parliamo delle bottiglie di vino più pregiato, dove vetro e sughero rimarranno padroni indiscussi, e ci mancherebbe altro. Ed ora ci diamo il microfono anche a Marco Carminati per l'altra nostra rubrica, articolo 9 per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, ancora bel tempo, primavera, dobbiamo andare all'aria aperta e l'Italia meridionale per esempio offre delle possibilità straordinarie. In particolare provate a immaginarvi una gita in una bella giornata a Paestum, dove ci sono i grandi templi. Ecco, oggi parliamo proprio di Paestum e ne parliamo con il dottor Michele Bonomo, che è il presidente di Lega Ambiente Campania. Buongiorno dottor Bonomo. Buongiorno a lei e a quanti ci ascoltano. Ecco, noi veniamo con lei in questo luogo incantato, fingiamo di essere due viaggiatori del Grand Tour del Settecento. Che cosa vediamo quando arriviamo a Paestum? Ci siamo appena lasciati alle spalle magari la terra Felix del Casertano. Sì. E davanti a noi si apre questa pianura stupenda, con ad un lato il mare e all'altro delle colline. D'improvviso appaiono questi templi che sono la più grande testimonianza del passaggio dei Greci su questo territorio e della fondazione della città di Poseidonia, probabilmente la più importante colonia greca nel Mediterraneo. Siamo in una specie di paradiso, abbiamo un abbaglio che deve essere una cosa emozionante, immaginando di vederlo per la prima volta. Adesso abbiamo finto di essere dei viaggiatori del Grand Tour del Settecento, purtroppo torniamo ad oggi. Che cosa si vede al di là dei templi? Una cementificazione in parte abusiva, soprattutto perché Paestum è protetta da una legge speciale fin dal 1957, la legge numero 220, che doveva preservare anche questo spazio intorno alla polis. Invece non è stato così e ci sono state molte costruzioni abusive, ma poi negli anni con il degrado generale che ha investito la nostra regione per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti ad esempio, questa pianura si è andata riempendo di presenze così aliene, estranee, e quindi oggi non si può godere dello stesso panorama che era possibile nel 700, nell'800, ma anche fino probabilmente alla seconda guerra mondiale. Da un lato c'è questa città antica, una parte, 20 ettari circa, sono ben salvaguardati, difesi grazie alla presenza degli archeologi, dei funzionari della sovrintendenza di Salerno. Certo. Ha un'altra zona invece che circonda le mura o addirittura interna alle mura antiche della città, invece è sottoposta ancora a coltivazioni intensive, all'uso di mezzi agricoli che mettono a repentaglio anche le strutture, le fragili strutture archeologiche di Paestum. Insomma, un gioiello che è assediato, senza dubbio. Tra l'altro so che è complicato venire per le vicende stradali, anche chi arriva in ferrovia non trova certo nella stazione un bel biglietto da visita, anzi trova il segno di un degrado un po' diffuso. Però so che voi avete in mente una via d'uscita molto precisa e molto efficace. Che cosa si può fare per Paestum concretamente? Sì, noi abbiamo lanciato quasi come se fosse una provocazione positiva un progetto. Sì. Abbiamo intitolato Paestum Umanità, a voler sottolineare anche il fatto che Paestum è patrimonio mondiale dell'UNESCO, quindi patrimonio di tutti noi, e abbiamo proposto di comprare per salvaguardare. Abbiamo lanciato una sorta di azionariato sociale, è possibile acquistare una quota dal costo di 50 euro sì. per partecipare al tentativo di acquistare questi terreni e per restituirli alla ricerca scientifica, per metterli a disposizione dei ricercatori, degli archeologi, e per nel frattempo utilizzare questi terreni a scopi comuni. Vale a dire, noi vorremmo trasformarli non più in zone attraversate da trattori o altri mezzi agricoli, ma destinarlo ai cittadini, ai bambini, ai certo, ragazzi. Quindi dei prati, del verde. Esatto, nell'attesa di portare alla luce progressivamente, cioè certo. anni naturalmente, l'intera città, mettere a disposizione attraverso la ricostruzione di questi terreni attraverso dei prati semplicemente. Quindi si tratta di rinunciare a una cena in due al ristorante per poter contribuire a salvare ciò che sta intorno a questi meravigliosi templi, quindi tra l'altro salvare quello che si trova ancora sotto, ma che verrà celato da un meraviglioso prato, quindi da un parco sostanzialmente, che sarà a disposizione dei cittadini. Mi sembra che il vostro progetto sia particolarmente efficace. Io, dottor Bonomo, la ringrazio per questa partecipazione, la saluto. Grazie a voi, grazie veramente. Ecco, a tutti gli ascoltatori naturalmente l'invito ad andare a controllare de visu che cosa è oggi Paestum, e grazie a questa iniziativa immaginare che cosa potrebbe diventare. Ed è tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. La prossima settimana appuntamento dagli studi di Radio 24 e non dal Vinitaly, come questa. Dobbiamo chiudere, grazie.